Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Le borse oggi sono negative, erano partite bene in mattinata, poi avevano proseguito senza infamia e senza lode, poi sono arrivati i brutti dati della trimestrale di Goldman Sachs, brutti dati anche sul fronte macroeconomico dagli Stati Uniti. Del resto ne parlavamo anche ieri, dicevamo che la situazione problematica è proprio quella della ripresa americana, è andata a scendere Wall Street e così tutto il resto d'Europa. Certo, le cose vanno meglio rispetto ad un'oretta fa, quando i cali sfioravano i 2 punti percentuali, adesso il FTSE MIB cede lo 0,99%, il FTSE All Share 1 punto percentuale, in America va lievemente meglio con il Dow Jones che cede lo 0,81%, al momento in realtà quella italiana è la peggiore tra le borse europee, ci sono solamente 3 titoli in positivo, Bulgari, Tenaris e Mediaset di borsa. Naturalmente parleremo più avanti e parleremo anche della situazione economica degli Stati Uniti. Parleremo anche della situazione economica italiana, che oggi ha fatto registrare un dato importante, ossia quello su fatturato e ordinativi dell'industria. Gli ordini in particolare sono cresciuti di oltre 26 punti percentuali, insomma il dato migliore dal 2005, parliamo naturalmente su base annua, poi tutto questo andrà commisurato al fatto che vanno recuperati i livelli pre-crisi, comunque un'indicazione positiva in qualche misura c'è e vedremo di capire qual è. Dati negativi invece per quanto riguarda l'Italia riguardano il Mezzogiorno, sono stati diffusi dal rapporto, se ne è parlato nel rapporto Svimez che è stato presentato questa mattina, e questo è un altro dei temi che affronteremo in questa giornata. Le notizie in breve di oggi. Iniziamo come sempre dal petrolio, aperto in calo anche oggi a $75,99 al barile, un calo dello 0,7%. Dato negativo dall'America, ve lo accennavamo poco fa, si parla delle costruzioni di nuove case negli Stati Uniti, a giugno sono letteralmente crollate, ai minimi da ottobre 2009 l'indice ha segnato un calo del 5%, al tasso annuo di 549.000 unità. Gli economisti si aspettavano un calo a 577.000, i permessi edilizi però sono aumentati del 2,1%, al tasso di 586.000. E si diceva dell'altra notizia che ha avuto un impatto sui mercati, ossia i dati di Goldman Sachs. La banca americana ha archiviato il trimestre con profitti netti in calo dell'82% a $613 milioni, pari a 78 centesimi per azione rispetto ai 3,44 miliardi dello stesso periodo 2009. Il risultato è anche inferiore alle previsioni degli analisti, che avevano stimato un utile per azione di $1,99, quindi 78 centesimi per azione l'utile di Goldman Sachs, quasi $2 quello stimato dagli analisti, ed ecco perché abbiamo visto quel che abbiamo visto in borsa. Meglio, questo è uno dei motivi. Sempre a proposito di mercati, è stata una giornata di collocamenti per quanto riguarda le obbligazioni di Stato, in particolare quelle di paesi a rischio. Ci iniziamo dalla Grecia, che ha collocato bond per 1,95 miliardi, la domanda ha superato l'offerta, sta accadendo quasi costantemente. Tenete anche presente che i rendimenti dei titoli di Stato a 3 mesi sono al 4,05%, appunto la domanda ha superato di quasi 4 volte l'offerta. La seconda asta quando Atene ha ricevuto gli aiuti europei a maggio scorso per scongiurare il default del paese. Ancora meglio sono andate le cose in Spagna. La Spagna ha collocato sul mercato 6 miliardi di euro di titoli di Stato, ha centrato l'obiettivo prefissato. Sono stati assegnati 4,25 miliardi di bond a 12 mesi. La cosa importante qua è che è calato il rendimento e quindi in qualche misura il premio di rischio sul paese, al 2,221% contro il 2,303 dell'ultima asta che risale il 15 giugno scorso. La domanda ha superato di quasi due volte l'offerta. Stesso discorso per i titoli a 18 mesi spagnoli, sono stati collocati 1,72 miliardi di euro al 2,331% contro il 2,837%. Infine, per chiudere il giro, anche l'Irlanda, che ha collocato 1,5 miliardi di titoli di Stato, due tranche con scadenza 2016-2020, rendimento medio quasi al 4,5% e oltre il 5,5%. Domanda forte, ha superato di 3,6 volte l'offerta per i bond a 6 anni e di 3 volte quella per i titoli a 10 anni. Molte indiscrezioni anche oggi a proposito di tenuta dei conti, ma in questo caso non di tenuta dei conti pubblici, ma di tenuta dei conti delle banche. Molte indiscrezioni sui famosi stress test. Ne parleremo, come già vi dicevamo ieri, lunedì, perché verranno pubblicati venerdì a borsa chiusa e a Focus Economia finito. E però magari venerdì cercheremo anche di chiarire un attimo quali sono questi criteri con i quali si stanno affrontando gli stress test, ossia i test di resistenza delle banche ad un grosso scenario di crisi. Allora, Moody's si aspetta che Bank of Ireland supererà lo stress test. Saremmo davvero sorpresi, dicono dall'agenzia di rating, se venisse chiesto alla banca di reperire altra liquidità. E ancora, indiscrezione del quotidiano Le Monde, che dice che le quattro principali banche francesi, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole e poi la banca franco-belga Dexia, hanno superato con successo l'esame degli stress test. Altre indiscrezioni ancora danno in difficoltà Hypo Real Estate, che è una banca che è stata nazionalizzata dalla Germania e insomma, indiscrezioni di oggi la vogliono in difficoltà, naturalmente, e continuano ad essere anche queste indiscrezioni, ossia sia quelle positive che quelle negative. E tornando invece ai conti pubblici, quelli degli stati e in particolare quelli dello Stato italiano, ha parlato il ministro dell'economia Giulio Tremonti in una lezione sul tema la crisi economica e l'Europa all'Università di Friburgo. Dice: il dovere politico di rigore sui bilanci pubblici deve essere totale e maggiore per tutti gli stati e in tutti gli stati. E ancora, non siamo il Titanic, ma nessuno si illuda avendo il biglietto di prima classe ed essendo magari sceso per giocare sul ponte della seconda di restare tra i passeggeri di prima classe, si riferisce all'Europa, Tremonti. E ancora, la crisi non è terminata, ha solo mutato la sua forma ed è passata dal privato al pubblico. Si parlava ieri della fiera di Farnborough in Inghilterra, la fiera più importante dopo quella di Le Bourget, insieme a quella di Le Bourget in Francia, per il settore aerospaziale, e si diceva ieri che c'è un qualche timore da parte degli operatori, da parte delle aziende del settore, al di là dell'aviazione civile, soprattutto per il settore della difesa, sottoposto a pressioni, per così dire, sul fronte dell'austerity imposta dai governi. Ebbene, oggi in Inghilterra c'era il ministro della difesa Ignazio La Russa, che ha detto che il governo italiano ha ritenuto di tagliare l'ordine di 25 caccia Eurofighter, che consentirà risparmi per 2 miliardi di euro senza intaccare l'efficienza delle forze armate. Così il ministro della difesa La Russa. Si accennava al rapporto Svimez, lo approfondiremo nell'ultima parte del programma, vi diamo qualche indicazione che è arrivata. Si legge nel rapporto che 8 famiglie su 100 hanno rinunciato ad alimenti necessari, e parliamo del Mezzogiorno. Una famiglia su 5 non ha i soldi per il medico e altrettanto una famiglia su 5 non ha avuto soldi per il riscaldamento. E ancora, la crisi erode ulteriormente la ricchezza al sud, tanto che il PIL di quest'area del paese nel 2009 è tornato ai livelli di 10 anni fa, è calato del 4,5% nel 2009, leggermente un valore molto più negativo rispetto al 2008, meno 1,5%. E ancora, un meridionale su 3 è a rischio povertà. E infine la valutazione sull'industria del Mezzogiorno. Nel corso del biennio ha perso più di 100.000 occupati, secondo il rapporto addirittura l'industria meridionale è a rischio estinzione. A proposito di occupazione, invece, oggi è stato diffuso il rapporto del CNEL che ci dà messe in numeri delle indicazioni che già avevamo percepito anche dai dati Istat dell'ultimo periodo. A partire dal problema della disoccupazione giovanile, tra i 15 e i 24 anni si è registrato un calo del 10,8% nel 2009 e un'intensa riduzione anche per le persone fino ai 34 anni, mentre non è stata intaccata la fascia più matura, così scrive il CNEL, dei 55-64 anni, il cui numero di occupati è risultato persino in aumento. Bisogna vedere naturalmente di costoro quanti sono andati in prepensionamento, perché insomma anche quello è un ragionamento. Il recupero del ciclo economico, dice ancora il CNEL, non basta per imprimere una svolta al mercato del lavoro e la disoccupazione nel 2010 salirà all'8,7%, 2,5 punti al di sopra del valore toccato nel 2007. Sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, come sapete ci sono in discussione 3.700 licenziamenti, 3.700 esuberi nell'ambito dei 4.500 tagli previsti al piano 2010-2012 e ci riferiamo a Telecom Italia. Oggi è stato un incontro interlocutorio. Poi è stato fissato un nuovo incontro per giovedì prossimo, vedremo che cosa ne emergerà. Mentre a proposito di licenziamenti, denuncia il Cobas di Campobasso che è stato licenziato un altro operaio della Fiat, come sentivate poco fa anche nel giornale radio, sarebbe stato licenziato per aver partecipato al presidio davanti allo stabilimento di Pomigliano d'Arco lo scorso 22 giugno, un operaio la powertrain della Fiat di Termoli. La FIOM tra l'altro ha proclamato per domani uno sciopero a Termini Imerese, altre 2 ore di sciopero per venerdì. Mentre è cessato il blocco degli operai dell'Euroallumina all'aeroporto di Cagliari. Molte notizie sul lavoro oggi, quelle dell'INAIL, anche queste ve le accennava il giornale radio. Continua a calare il numero degli incidenti mortali sul lavoro, tocca il minimo storico. Nel 2009 sono stati 1050 i decessi, inflessione del 6,3% sul 2008, il numero più basso mai registrato dalle rilevazioni statistiche, e si parla del 1951. Per un commento ai dati sentiamo il presidente dell'INAIL, Marco Fabio Sartori, intervistato da Daniela Binello. Noi abbiamo diminuito gli infortuni nel mondo del lavoro di 200.000 unità dal 2002 al 2009, quindi con una diminuzione considerevole, e sarà sempre più difficile fare meglio. Come fare? Intanto attraverso il polo sicurezza del lavoro noi potremo avere finalmente la tutela integrata del lavoratore, investire di più in prevenzione, perché è l'unica cosa che possiamo fare, aiutare le imprese a investire in sicurezza, diffondere la cultura di un approccio al mondo del lavoro più mediato e sicuro, come deve essere. Dobbiamo dire grazie alla crisi per un terzo del calo degli infortuni, ma dobbiamo dire grazie a noi, al sistema Italia, per oltre il 70% della diminuzione degli infortuni rispetto al 2008. Quindi dobbiamo sottolineare il dato crisi per non illudere le persone, perché è giusto e corretto, ma dobbiamo anche dire bravi a quegli imprenditori, a quel sistema delle associazioni di categoria, dei patronati, del sindacato e anche del sistema pubblico, in primis INAIL, che credono e che investono nel mondo della sicurezza del lavoro. E mi sembra che il presidente dell'INAIL, Marco Fabio Sartori, risponda anche all'ascoltatore che al 349-238-6666 ci fa notare, appunto, logico che calino gli infortuni, c'è meno lavoro. Il rapporto INAIL, dice comunque il ministro del welfare Maurizio Sacconi, ci dice che fortunatamente andiamo nella giusta direzione. Sentiamo proprio Sacconi, sempre al microfono di Daniela Minello. Sono indicatori molto importanti che presto evolveranno in un vero e proprio sistema informativo nazionale, utile a comprendere come nei diversi comparti, nei diversi territori, nelle diverse dimensioni di impresa evolvano o involvano gli infortuni nel lavoro, soprattutto quelli più gravi e di carattere mortale. Ora registriamo positivamente una costante diminuzione nel corso di tutto il decennio, con l'unica eccezione che avemmo nel 2006, e che è superiore anche a quella che può essere stata determinata dalla contrazione dell'economia e dell'occupazione nell'anno trascorso. Ci sono differenze di settore, l'industria reagisce meglio, mentre i servizi, l'agricoltura, l'edilizia meno. E questo dunque era il ministro del welfare, Maurizio Sacconi. Veniamo al primo tema di questa giornata e parliamo di Mezzogiorno. Si diceva del rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno 2010. Tra gli altri dati, ve li citiamo per titoli perché qualcosa vi abbiamo accennato già poco fa. Una famiglia su cinque non ha soldi per il medico. Crisi che erode la ricchezza, PIL a livelli di 10 anni fa. Un meridionale su tre è a rischio povertà. Nel 2008-2009 l'industria ha perso 100.000 occupati. Un'industria che viene definita nel rapporto Svimez a rischio estinzione. Saluto dunque Luca Bianchi, vice direttore dello Svimez. Buonasera Bianchi. Buon pomeriggio. Allora, partirei naturalmente proprio da questi dati. Io però vorrei stimolarla su questo. Di dati su questo fronte noi ne abbiamo sentiti tanti, ne sentiamo costantemente. La vostra analisi naturalmente è molto puntuale, del resto vi occupate di questo, vi occupate di sviluppo del Mezzogiorno, e quindi non potrebbe essere diversamente. Quanto di questi dati, che naturalmente si basano su indicazioni ufficiali, possiamo attribuire alla realtà e quanto magari al nero che c'è? Beh, i dati sì, ovviamente scontano una presenza rilevante di lavoro nero, noi anche quella stimiamo, e circa un lavoratore su tre rischia di essere coinvolto nel Mezzogiorno, più o meno nell'economia sommersa. Però questo secondo noi non modifica i contenuti del divario, delle differenze tra nord e sud, anzi, in fondo il lavoro sommerso è un'altra faccia del sottosviluppo, cioè noi non credo che si possano contare i lavoratori in nero come se fossero lavoratori irregolari, non è che possiamo dire che un'economia che è sostenuta dal nero sia un'economia che ha potenzialità di sviluppo. No, certo, però è vero anche che sono più soldi che circolano rispetto a quel che si crede, no? Insomma, quindi quello è un po' di soldi che circolano in più. Questo vale anche per la criminalità organizzata, che come lei sa ormai ha un valore sul PIL molto rilevante. Il problema è la distribuzione del reddito, cioè noi siamo convinti che nel Mezzogiorno, i dati lo testimoniano, c'è una distribuzione del reddito anche per effetto economia sommersa e criminale molto diseguale, quindi abbiamo realmente situazioni di emergenza sociale in alcune aree molto molto rilevanti. Se lei parla con qualche sindaco del Mezzogiorno, proprio stamattina faceva presente che comincia la fila delle persone che non più chiedono un posto di lavoro, ma molto spesso chiedono semplicemente una sovvenzione per soddisfare i bisogni primari. Ci chiede giustamente un ascoltatore, ed è una domanda che ci siamo fatti anche noi al 349-238-6666, ci chiede, come fanno a mancare i soldi per il medico, che c'è il Servizio Sanitario Nazionale? Che cosa intendete con questo dato? Si tratta di, purtroppo nel Mezzogiorno, come voi sapete, il livello anche delle strutture pubbliche sono molto deficitarie, quindi si tratta molto spesso della necessità di ricorrere a cure di carattere privato. Le liste per avere un attacco, per avere alcuni servizi essenziali nel Mezzogiorno sono molto lunghe, e quindi molto spesso un'emergenza comporta necessariamente dover ricorrere anche alla struttura privata, insomma. E questo è quel che vuol dire questo dato. Si ha un pochino l'impressione, Bianchi, e giusto per venire a quello che può essere il futuro, che in realtà è quello che ci interessa, insomma, quello che avete fornito oggi è una fotografia di quel che succede attualmente. Si ha l'impressione che siamo un pochino in una fase di passaggio dal punto di vista delle scelte politiche che riguardano il Mezzogiorno e conseguentemente delle scelte per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, ossia è finita, mi sembra definitivamente, la fase del cosiddetto assistenzialismo e si sta pensando a qualcosa di nuovo, ma non c'è ancora chiara una vera ricetta. Voi... Non c'è dubbio. Noi abbiamo provato a fare qualche proposta. Innanzitutto credo che questi dati servono a dire che se è finita l'era dell'assistenzialismo, non può finire l'era dell'assistenza, cioè nel senso che abbiamo le fasce più deboli della popolazione che vanno tutelate. Questo, secondo me, anche nel dibattito sul federalismo rappresenta una componente essenziale, nel senso che troppo spesso i cittadini hanno pagato le colpe dei propri governanti e questo rischia di essere un effetto un po' bastardo. Però li votano i governanti. Esattamente, li votano perché c'è un sistema, diciamo, una debolezza della classe dirigente. Questo però è un'altra riflessione andrebbe fatta, cioè perché evidentemente una democrazia ancora abbastanza debole come quella del Mezzogiorno, avvicinare il cittadino a chi viene votato molto spesso ha un effetto contrario a quello positivo che nel federalismo spieghiamo, cioè in qualche maniera il ricatto del bisogno nel Mezzogiorno, c'è una vasta letteratura su questo, ha spesso comportato elementi negativi. Però per tornare alla riforma, noi abbiamo fatto delle proposte chiare. Noi crediamo che abbia fallito il sistema regionalista in questo paese, perché troppo spesso appunto la parcellizzazione degli interventi, la frantumazione, il sistema clientelare, non si può tornare indietro a sistemi centralisti esclusivamente gestiti dal centro. La chiave del coordinamento, del mettersi insieme, noi abbiamo fatto un semplice conto, con meno di 40 miliardi si potrebbero completare infrastrutture, opere infrastrutturali di dimensioni rilevantissime, cioè potremmo finire la Salerno-Reggio Calabria, fare la Napoli-Bari, collegare, diciamo, il sistema ferroviario del Mezzogiorno a quello del centro-nord. Si tratta di una cifra rilevante, ma rispetto ai tanti soldi che vanno nel sud, se finalmente si mettessero a tavolo le regioni e ci mettessero un po' di soldi e lo Stato centrale definissero una lista prioritaria di opere da fare, da realizzare subito, dei grandi progetti su cui poi valutare se li fanno veramente, io credo che potremmo veramente finalmente cambiare qualcosa. Se no il dibattito è astratto, continuiamo a dire appunto sì, assistenzialismo sì, no, regioni virtuose, regioni non virtuose. Sì, sì, però il ragionamento, mi scusi Bianchi, il ragionamento regioni virtuose, regioni non virtuose c'è, insomma, molti ascoltatori ci fanno notare via SMS, ci ricordano una serie di cose, una serie di dati che abbiamo visto anche in queste ultime settimane pubblicati da vari giornali e non solo, proprio riferiti al tema del federalismo, e che passano dagli enormi costi di anche singole operazioni sanitarie per quanto riguarda le regioni del sud, alcune regioni del sud rispetto ai modelli del nord, pensiamo alla Lombardia naturalmente oppure al Veneto, e c'è chi anche ci fa notare l'enorme numero di parlamentari e di dipendenti della regione, cioè, o meglio l'enorme numero di dipendenti della regione siciliana e no, i grandi costi del Parlamento siciliano, insomma, il tema è anche quello, no? È senz'altro quello, però oggi noi avevamo tutti i presidenti delle regioni meridionali e c'erano presidenti del centrodestra e del centrosinistra, molti erano appena nominati, c'era il presidente Caldoro ad esempio, e la Campania è notoriamente una regione poco virtuosa, però la vogliamo condannare per sempre a essere poco virtuosa o vogliamo cominciare a colpire o a premiare i comportamenti virtuosi o non virtuosi, nel senso con quello stock di debito che si ritrova nelle regioni meridionali, a questo punto dobbiamo vedere chi si comporta bene e chi si comporta male, quindi dobbiamo premiare i comportamenti o punire i comportamenti virtuosi. Se parliamo sullo stock accumulato, le condanniamo senza nessuna possibilità di, e questo lo dico anche per i nuovi governatori che sono arrivati, cioè, se vogliamo dargli una prospettiva dobbiamo prevedere dei comportamenti virtuosi. I dati della CGA di Mestre della scorsa settimana sull'incremento delle spese di rappresentanza mostravano che nel centro-nord la crescita è stata doppia a quella del Mezzogiorno negli ultimi anni. Cioè vuol dire che esistono comportamenti non virtuosi anche nelle regioni virtuose. Sì, però parliamo di bilanci completamente diversi. Sì, ma dei bilanci di partenza, cioè lo stock di debito accumulato, ad esempio la regione Campania o della regione Calabria, può condannare una regione per sempre a essere non virtuosa e quindi non meritevole di aiuti? Io credo che a questo punto dovremmo prevedere degli standard di comportamento, di servizio e di costo su cui accompagnare e punire quelli che, se no diventa un dibattito ideologico, che alla fine... i virtuosi sono al nord e i non virtuosi sono al no, sud. Che alla fine quello che dice lei è esattamente l'obiettivo, sarebbe esattamente l'obiettivo del federalismo fiscale. Ma noi, figuriamoci, noi il federalismo non abbiamo mai scritto una parola contro, il problema è che secondo me ce l'hanno spacciato per un'altra cosa da quella che è questo, cioè efficienza, responsabilità. Se invece è una maniera, perché dobbiamo a tavolino definire che più soldi rimarranno al nord e meno andranno al sud, secondo me questa è difficilmente realizzabile dal punto di vista costituzionale. Grazie dunque a Luca Bianchi, vice direttore dello Svimez, per essere stato con noi e per averci aiutato anche a rispondere alle domande piuttosto cattive dei nostri ascoltatori. Buonasera. Grazie Bianchi. Grazie a voi, arrivederci. Poco fa il Dow Jones è ancora in calo, c'è dello 0,66%. La chiusura a Milano è negativa, non così male come abbiamo visto a metà pomeriggio, si diceva, il FTSE MIB era arrivato a cedere l'1,8%, chiude con un 0,66% di calo, il FTSE All Share con un calo dello 0,71%. Ci sono alcuni temi di giornata, naturalmente continuano a dominare la questione dei famosi stress test bancari. Si era detto di Hypo Real Estate, ossia la banca tedesca controllata dal governo tedesco, secondo indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, non avrebbe superato facilmente i cosiddetti stress test. I risultati, lo ricordiamo, verranno pubblicati nella giornata di venerdì a borsa chiusa. Altre indiscrezioni invece positive sono arrivate per quanto riguarda le banche francesi. A conclusione della giornata l'Eurostock delle banche ha guadagnato lo 0,73%, ma male hanno fatto complessivamente le banche in Italia. Intesa San Paolo è scesa dello 0,11%, Mediobanca dello 0,16%, UbiBanca dello 0,19%, la Popolare di Milano dello 0,20%, il Monte dei Paschi dello 0,32% e Unicredit dello 0,45%. Tra i titoli positivi c'è stata Bulgari, sicuramente, anzi il titolo migliore del listino sul FTSE MIB, un guadagno del 2,20%. È andato bene un po' tutto il comparto lusso, c'è stato un rialzo delle stime sulle vendite del 2010 da parte di Hermès International, il gruppo francese. Bene Tenaris con un guadagno dello 0,74%, Parmalat dello 0,36%, Mediaset un guadagno dello 0,33%, nonostante la battaglia che vi stiamo riferendo nei giornali radio, la battaglia legale che si sta avviando con Sky per quel che riguarda il digitale terrestre. Bene Exor con un guadagno dello 0,14%, Luxottica un guadagno dello 0,05%, in pareggio Italcementi e Terna, e i titoli in positivo sono finiti. Da segnalare la performance di Fiat, naturalmente il calo del 2,06%, c'è naturalmente attesa per il CDA di domani che avverrà negli Stati Uniti per i risultati semestrali che verranno diffusi la mattina prima che aprano le borse. E naturalmente però c'è da segnalare che lo stock di settore è sceso dell'1,78%, quindi il settore auto ha fatto male un po' in tutta Europa. Sono andate male complessivamente le telecomunicazioni, Telecom Italia ha ceduto il 2,14%, c'è stato un profit warning da parte di Cable and Wireless in Inghilterra. Da segnalare tra i titoli naturalmente risanamento con le evoluzioni dell'inchiesta, stiamo anche qua raccontando nei giornali radio. È stata sequestrata l'area di Santa Giulia perché la bonifica non sarebbe stata effettuata nella maniera corretta. Ha ceduto oggi risanamento l'8 8,48%. Per chiudere, titolo peggiore sul FTSE MIB e Saipem, un calo del 2,5%, Buzzi Unicem del 2,42%, ST Microelectronics del 2,20%, Lottomatica del 2%, di Telecom Italia e Fiat si è detto, Unipol e Mediolanum giù dell'1,7%, dell'1,6% o poco più, Autogrill giù anche Finmeccanica e Campari, entrambe dell'1,17%, Atlantia dell'1,14%, Prysmian dell'1,13, CIR di un punto percentuale, Generali dello 0,87%, Geox dello 0,78%, dello 0,6%, Fondiaria, Pirelli e Enel, giù Eni di mezzo punto percentuale, A2A altrettanto, Unicredit dello 0,45%, il Banco Popolare dello 0,44%, Snam, Rete Casa dello 0,43%, Impregilo dello 0,41%, e tutti gli altri vi abbiamo detto. Per quanto riguarda il cambio dell'euro, a 1,29 e 1 in questo momento contro dollaro. E veniamo all'economia americana. Ve ne abbiamo parlato lungamente ieri perché ci stavamo chiedendo perché mai aggiornamenti continui per quanto riguarda le economie europee, aggiornamenti negativi intendiamo, come i due successivi tagli di rating da parte delle agenzie per quanto riguarda l'Irlanda e il Portogallo, nuovi warning per quanto riguarda l'Ungheria, diciamo, ma chissà perché le borse europee non reagiscono come reagivano un mese fa. E ieri due persone, Walter Riolfi e Mario Spreafico di Schroeder, ci dicevano che il problema è proprio il fatto che dall'altra parte dell'oceano le cose non vanno così bene, quindi, come dire, la reazione, l'attenzione degli investitori è come se fosse puntata negli Stati Uniti. La dimostrazione è che l'euro si sta rafforzando. Vogliamo parlare anche di questo e anche alla luce dei dati che abbiamo visto oggi, la trimestrale di Goldman e i dati sulle costruzioni delle case, con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Mario, buonasera. Buonasera, buonasera, eccoci. Allora, che impressione hai da là? Perché abbiamo sentito ieri due persone che vivono e lavorano in Italia, vivono e lavorano nel vecchio continente, vorremmo capire che sensazioni si hanno da New York. Beh, dunque, guarda, la situazione è che in America c'è molta preoccupazione, c'è la consapevolezza che l'economia sta rallentando. Non c'è un backup plan, quindi un nuovo piano di stimoli abbastanza aggressivo che va in scadenza a settembre, e dunque l'idea è che l'economia continuerà a crescere magari intorno al 2-2,5% da qui alla fine dell'anno, ma in una fase di rallentamento, e quindi la preoccupazione torna ad essere quella del double dip. E mentre soltanto 2 o 3 mesi fa il double dip, e cioè il rischio di una ricaduta in recessione, era di circa il 5%, oggi è aumentato al 25%. Ha colpito molto la caduta dei profitti dell'82% di Goldman, anche se ovviamente hanno contabilizzato in perdita anche i 550 milioni di dollari che hanno pagato come multa al governo americano. Però ecco, queste notizie, e non soltanto sul piano finanziario, ma il fatto che c'è una debolezza continua del mercato del lavoro. Proprio oggi abbiamo visto che c'è stata una diminuzione addirittura del 5% dell'inizio dei lavori nelle nuove case, quindi la settimana scorsa abbiamo avuto altri dati economici relativamente negativi. Ecco, tutto questo ovviamente crea una psicologia, diciamo così, un po' allarmistica. Il Dow Jones in questo momento è vicino a una perdita dell'1%, è salito, è ridisceso, ma sta di nuovo flirtando con quota 10.000, e non è chiaro se di nuovo torneremo sotto dopo che c'era stato un tentativo di ripresa. Il presidente Barack Obama in tutto questo cerca di reagire, perché si rende conto che con l'economia che va male e con l'indice puntato sul fatto che il suo pacchetto, che lui aveva promesso che avrebbe creato 7 milioni di posti di lavoro, invece più o meno ce ne sono 3, anzi 3, dice l'amministrazione, che non sono andati perduti, ecco che alla fine the buck stops here, come diceva il presidente Harry Truman, e dunque alla fine il testimone si ferma sulla Casa Bianca, e Obama sta cercando di contrattaccare, ha attaccato i repubblicani, chiede che si passino delle misure per aiutare i disoccupati e quindi per aumentare la durata dei sussidi alla disoccupazione. Proprio oggi al Senato i senatori democratici faranno un nuovo attacco in questo senso, cercando di ravvivare un pochettino le proposte che sono sul tappeto. Ieri c'è stato un attacco concentrico da parte di Barack Obama appunto contro i repubblicani, una lettera di 16 economisti guidati da Joseph Stiglitz, ma c'era anche Alan Blinberg, ex della Fed, quindi un uomo più centrista, i quali dicevano non è il momento del rigore, è il momento di sostenere la crescita. C'è stato un intervento di Larry Summers, il quale ha detto rigore e crescita possono essere conciliabili, cioè non sono due aspetti contraddittori. Quindi quello che sta capitando, e che quindi nervosisce il mercato, è che non c'è chiarezza di vedute anche all'interno della stessa amministrazione. Si diceva di Goldman Sachs, Mario. Allora, ricordiamo che l'ultima notizia che abbiamo avuto da Goldman è che, come sapete, era stata accusata di frode e aveva raggiunto un accordo con la SEC e dovrà pagare 550 milioni di dollari, la cifra maggiore mai versata da una società di Wall Street. Ma al di là di queste vicende ci sono i dati di oggi, e i dati sono fortemente negativi rispetto a quelle che erano le attese degli analisti. Il mercato ha reagito molto male all'inizio e poi mi sembra che stia riprendendo qualcosina. Sì, ha reagito molto male, perché se Goldman perde l'82%, o meglio ha una riduzione dell'82% dei profitti rispetto all'anno scorso e dunque torna a quella situazione in cui ci si trovò nel momento peggiore della crisi, vuol dire che Goldman, che è stata molto attiva in attività speculative sul mercato, non ha fatto bene e dunque è un indicatore alquanto inquietante delle incertezze in cui ci troviamo. Ecco, poi si è capito che di questa diminuzione dell'82% una buona parte, e cioè 1,15 miliardi di dollari, era da attribuirsi a una tantum, e cioè ai 550 milioni di dollari che sono stati pagati al governo americano per risolvere, per raggiungere un accordo extragiudiziario con la SEC, che aveva accusato Goldman Sachs di truffa nei confronti di alcuni suoi clienti, e il resto, altri circa 500-600 milioni di dollari, per risolvere un problema fiscale legato a bonus che la banca aveva pagato in Gran Bretagna. Quindi il fisco americano e il fisco britannico hanno incassato ciascuno 550 milioni di dollari circa, quindi si sono divisi questo 1,15 miliardi. Allora l'idea è che, archiviata questa vicenda di una tantum, poi Goldman da un punto di vista operativo dovrebbe tornare a far bene. Però, come dicevo prima, non è soltanto Goldman, ma è l'atmosfera più generale, l'atmosfera di incertezza. Le aziende sono preoccupate, le aziende hanno fatto negli ultimi trimestri profitti in generale abbastanza buoni, le aziende hanno cash, hanno contante, ma non lo spendono. L'incertezza deriva ad esempio dall'impatto che potrebbe esserci dalla riforma sanitaria, ancora nessuno lo sa quale sarà il costo sulle imprese, né si sa quale sarà il costo sulle imprese con la riforma del sistema finanziario. L'idea di creare questa agenzia per i consumatori, ad esempio, preoccupa molto, perché significa inserire l'ACI e l'acciuoli nell'erogazione del credito al consumo, che come sapete rappresenta uno dei traini principali per la crescita dell'economia americana. Sul piano politico su questo si discute molto, perché perché Barack Obama vorrebbe nominare alla guida di questa nuova agenzia Elizabeth Warren, che diciamo è un po' un ultra, è un po' a sinistra, è quella tra l'altro che aveva concepito stessa questa agenzia. Ecco, i banchieri erano in qualche modo giunti alla conclusione che avrebbe potuto trovare un modus vivendi con questa nuova agenzia, ma tutto stava punto, nel modo in cui sarebbe stata condotta. Certo, a questo punto naturalmente sono molto preoccupati. Vedremo che cosa succederà e vedremo quali segnali arriveranno. Io intanto ringrazio Mario Platero, corrispondente a New York del Sole 24 Ore, il quale ci ha dato qualche notizia prevalentemente cattiva che arriva dagli Stati Uniti. Vedremo se riusciremo adesso a darvi qualche notizia buona, in questo caso in arrivo dall'Italia. E ci riferiamo ai dati diffusi questa mattina dall'Istat sul fatturato e gli ordini all'industria. Per quanto riguarda gli ordini, sono dati grezzi, naturalmente vanno ancora in qualche modo depurati, un più 26,6%, record dal 2005, il più alto dal 2005, ovvero da quando esistono le nuove serie storiche, scrive l'Istat. E ancora, il fatturato a maggio più 8,9%, il top dal 2008. Buonasera Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Buonasera a tutti. Allora, come interpretiamo questi dati? Beh, sono sicuramente molto positivi, soprattutto quelli degli ordinativi, perché questi danno un'indicazione di come andrà il fatturato nei prossimi mesi e questi danno un aumento consistente, trainato sempre dal mercato estero, perché a maggio-aprile c'è stato un aumento del 9,5% mensile destagionalizzato. In termini di livelli siamo tornati vicini ai valori prima della crisi, e quindi sicuramente un dato molto confortante per quanto riguarda appunto gli ordini dall'estero, un po' meno ovviamente quelli dall'interno, che invece sono scesi nel mese, meno 0,4, che indica che c'è una domanda di consumi e investimenti ancora fiacca, che la crescita è tutta trainata dalle esportazioni, cosa che è confermata peraltro dai dati sempre comunicati oggi, che riguardano il commercio con l'estero, con i paesi fuori dall'Unione Europea, dove abbiamo avuto un aumento mensile a giugno delle esportazioni del 9,2%, anche questo è un dato molto importante. Sì, tra l'altro oggi sono stati diffusi ancora altri dati, sono quelli dell'UCIMU, perché si dice che nell'ultimo trimestre c'è stato per le macchine utensili una crescita di ordini del 66,4%, sono dati diffusi questa mattina, e oggi il Sole pubblica un bel pezzo, il Sole 24 Ore, per quel che riguarda il settore meccanotessile, dove si parla insomma di ordini in fortissima crescita, soprattutto naturalmente dai paesi asiatici, in particolare India, più 110%, se non erro un più 73% dall'India, perché Paolazzi, la domanda arriva da là. Assolutamente sì, nei prossimi anni questi paesi, i paesi emergenti in generale, in particolare la Cina, daranno un contributo decisivo alla crescita del PIL mondiale. Si stima che nel prossimo quinquennio, a fronte di una crescita complessiva del PIL mondiale media annua intorno al 4,5%, più di due terzi, 70% di questa crescita viene dai paesi emergenti, un terzo di questa crescita, cioè un punto e mezzo del PIL mondiale, verrà dato dalla crescita cinese. Certo, non vanno presi questi numeri come oro colato, però danno la direzione in cui ci stiamo muovendo, ed è molto importante che si sia capaci di cogliere questa domanda in quei mercati, e appunto le imprese italiane, con questa dinamica delle esportazioni fuori ai mercati europei, sembrano capaci di farlo. Infine la domanda, quella più difficile per un economista, ossia la previsione, insomma, vorremmo anche capire che cosa vi aspettate per i prossimi mesi e se, insomma, se questi livelli di crescita, soprattutto per gli ordini, sono sostenibili. Insomma, quando si pensa di poter arrivare al livello pre-crisi complessivo, insomma, sia per quanto riguarda l'estero che per quanto riguarda l'Italia? L'ultima domanda cambia a seconda ovviamente dei ritmi di espansione dell'economia. Finora, per quanto riguarda il PIL, si pensava di ritornare ai livelli pre-crisi al 2013 per quanto riguarda l'economia italiana, ancora quindi 4 anni difficili davanti, però devo dire che se guardiamo l'andamento della produzione industriale, degli ordini, delle esportazioni, per esempio le esportazioni extra UE, fuori dall'Unione Europea, sono già tornate ai livelli pre-crisi, quindi diciamo, se guardiamo queste dinamiche più recenti, l'orizzonte si accorcia per fortuna. Quali sono le previsioni? Osserviamo a livello internazionale un po' di rallentamento, in parte voluto, come è in Cina, dalle politiche che tendono a evitare il surriscaldamento di quell'economia, un po' subito, come negli Stati Uniti, dove c'è ancora fragilità in alcuni mercati come quello immobiliare, e dove il mercato del lavoro rimane debole. e quindi i consumi non riescono a marciare a gran ritmo. Però nel complesso l'economia mondiale ha accelerato molto più dell'atteso tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 e quindi diciamo, anche se c'è una riduzione leggera del tasso di velocità nei prossimi mesi, rimaniamo comunque a ritmi di crescita elevati. Grazie dunque a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, per essere stato con noi. Molto rapidamente gli altri ringraziamenti a Barbara Bianchi in redazione, Paolo Corleoni in regia, a tutti voi per l'ascolto. Una buona sera da Simone Spezia. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17.